Luca. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allora, mi chiamo Dennis, ho sconfitto la solitudine adottando un cane. Da quando è morta la mia cagnetta che me l'hanno avvelenata 9 anni, che ieri ha fatto 2 mesi, io non dormo più la notte, piango con mio marito e tutte le notti mi corrono alle 2 di notte lì seduta vicino la fotografia della mia cagnetta che la piango. Certo, sono io che non dormo più la notte ascoltando questi annunci alla luce di un fosco e torbido episodio di cronaca che mi colpisce duramente su 2 diverse corde della mia sensibilità. L'uno è il fatto che io sia perugino, perché il teatro è proprio Perugia. L'altro è che, beh, non riesco a dirla perché è abbastanza pesante. L'altro è, ve la racconto in termini, mi mancano le parole per dirla, ma lo devo dire. A Perugia sono state scoperte un giro di prostituzione, fin qua niente di strano, è una città che abbiamo già detto che è abbastanza incline a questa deriva verso l'irregolarità. Sono state messe nei guai 2 ragazze, 2 studentesse squillo, che come tante altre studentesse squillo fanno questo tipo di attività. La circostanza additiva è che queste 2 ragazze fornivano una serie di prestazioni di cui finora non ho mai sentito parlare, perlomeno nelle cronache. Vorrei però dirmelo fosse la persona che ha tirato fuori questo fatto di cronaca, agendo di persona e ponendoci un nuovo dilemma questa mattina. Beh, insomma, queste ragazze avevano con loro un cane che faceva parte, diciamo, delle prestazioni fornite da quel tipo di casa d'appuntamenti. Questo cane, a piacere, a domanda, richiesta, partecipava a incontri con le ragazze, con i loro clienti. Ora, adesso il problema è, proprio da un punto di vista giuridico, in realtà queste ragazze non compiono un reato, perché il maltrattamento verso gli animali in varie forme è in qualche maniera, diciamo, sanzionabile, ma non certo l'abuso sessuale su un animale non è previsto dal codice, considerata cosa talmente fuori dalla norma, fuori dalla regola, che non è considerata come una sevizia nei confronti di un animale. Io penso che sia tale, lo dico al di là di tutte le facezze, sì, beato il cane, chissà quante ne avrà viste, ma immaginatevi voi cani e dover andare con degli esseri umani. È una cosa che per il cane non credo che sia una soddisfazione, un piacere, comunque una cosa che gli viene imposta, è qualcosa che rasenta la tortura, che rasenta il maltrattamento forte. Non voglio entrare nel giudicare le parafilie di altri esseri umani, però logicamente una volta che il problema viene fuori, una volta che è individuato, va affrontato. Lo affrontiamo con la possibile leggerezza con cui possiamo affrontare questo tipo di problemi e anche con la necessaria documentazione. Una notizia veramente curiosa, accaduta però veramente. Una donna di Crespiano, in provincia di Taranto, espone una denuncia per stupro, ma gli accusati sono 2 cani. La signora racconta ai carabinieri: uno mi teneva ferma mentre l'altro mi spogliava con l'intenzione di usarmi violenza. Insomma, sembrerebbe che i 2 erano coalizzati per una sorta di aggressione sessuale. I 2 animali sono molto noti nella zona e, a detta di molti, di carattere docile. Purtroppo però ora sono stati rinchiusi in un canile in cui soffrono il limite delle sbarre. Sono in prigione dunque. Questa è una denuncia, l'aveva fatta una signora amante degli animali, di un'associazione che protegge gli animali, perché anche lì è un altro paradosso. Una donna delle sue contrade aveva denunciato 2 cani per tentato stupro. E ha detto che un cane la teneva ferma, l'altro la spogliava, hanno tentato di stuprarla. Ora, non so come è andata a finire questa tipo di azione giudiziaria, ma 2 cani sono stati ingiustamente imprigionati, sono stati messi in un canile in condizioni anche piuttosto barbare, e questa signora giustamente protestava. Quindi evidentemente esiste o un vuoto legislativo nei confronti dei possibili rapporti fra uomini e animali, o comunque questo tema, se nessuno l'ha mai trattato, lo trattiamo noi questa mattina. 800 24 00 24. Lorenzo Croce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Devo dire che è difficile, forse questa è la trasmissione più difficile che mi è capitata quest'anno, però lei, con la delicatezza per le persone che ascoltano, racconti qual è, diciamo, la sua esperienza, come lei ha agito e come lei è stata la persona che ha fatto scoprire questo giro di prostituzione col cane a Perugia. Allora, intanto non è il primo caso, ma di questa questione addirittura noi abbiamo già investito e siamo stati sentiti dalla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo per chiedere che la zoofilia o zoestia, meglio ancora come viene definita, diventi un reato europeo, perché purtroppo in molti paesi non lo è, tra cui l'Italia. Detto questo, noi come associazione ci occupiamo... Cioè in Italia non è reato, se in teoria una persona va in giro con un, con un cavallo, con un cane, con un gatto, quello che vuole, dice vado a farci l'amore, lo può fare. Sì, e per giunta in Italia ci sono a portata di bambini 23 milioni di link di filmati pornografici con protagonisti, in alcuni casi addirittura bambini e animali. Quindi però non entriamo in questo, perché qui entriamo davvero nel caso specifico. Nel penale spinto, in effetti, sì. È molto semplice. Noi abbiamo ricevuto l'ennesima segnalazione da persone che abitano in via della Cupa, se non ricordo male. Conosco benissimo, sono fino a 30 anni ho vissuto a Perugia, sì. La zona è questa. Di queste due ragazze che ricevevano e ci hanno raccontato. Fra l'altro è contigua alla zona dove accade il caso Meredith, devo dire, visto che conosco. Questo non lo so, è la mia che passa sotto. Ecco, detto questo, noi abbiamo attivato i nostri controlli, chiamando, siamo riusciti attraverso un giro di segnalazioni che abbiamo ricevuto e attraverso degli annunci online che abbiamo scoperto essere di queste due signore. Perché l'annuncio era esplicito, volete se abbiamo anche il cane? No, l'annuncio non era per niente esplicito, l'annuncio era centro massaggi, due ragazze si offrono per massaggi terapeutici, eccetera, eccetera. Da qui, avendo noi saputo che c'era questa problematica, mi sono incaricato, avendo, non perché io sia particolarmente avverso a queste cose, ma perché avendo ormai un'esperienza pluriennale nello scoprire e nel denunciare queste situazioni, conosco un po' anche i meccanismi sui quali si deve far leva per arrivare, adesso non entro nei dettagli, però insomma alla fine dopo due telefonate siamo riusciti a scoprire che loro, oltre a 200 euro a testa per le prestazioni che ben poco avevano a che fare col massaggio, c'era la possibilità di avere del sesso orale con il cane, una femmina di semi labrador, a 100 euro in più. A questo punto... Quindi era sfruttamento della prostituzione del cane, doppiamente... In teoria sarebbe maltrattamento, noi adesso stiamo valutando l'ipotesi di presentare comunque una denuncia per maltrattamento, perché riteniamo che il cane, che è di proprietà di una delle due signore intestato a questa ragazza di Lecce, sia da sequestrare e da riaffidare, non da chiudere in canile, ma da riaffidare attraverso un comportamentista a persone che lo possono poi... Andrà riabilitato a avere dei rapporti diversi con gli esseri umani, se no ogni essere umano... Questo purtroppo è un fattore che, ripeto, è più diffuso di quello che pensiamo. Ma si fermi un attimo, Lorenzo Croce, 800240024, 0024. Abbiamo un pubblico, noi normalmente molto amante degli animali, spesso scherzato, ho ironizzato su questa cosa, oggi lo trovo particolarmente scioccato. Letizia. Sì, sono scioccatissima e indignata per quello che sta succedendo. Il reato di zoorastia, o come si chiama esattamente, dovrebbe essere contemplato da un codice penale, perché è assurdo. Basta, ok? Solo questo devi dire. Ma sì, non voglio dire altro, perché ho concentrato tutte la mia indignazione e il mio avvilimento su questo argomento. Ma lei scopre questa mattina che esiste questo tipo di... No, io non lo scopro stamattina. E so ad esempio che addirittura in certi paesi nordici è regolamentata, i rapporti sono regolamentati, ma lo trovo un segno di inciviltà e di pazzesco che la gente non si indigni e non faccia qualcosa, perché questi poveri animali, a parte l'orrore della cosa, sono sottoposti a delle sevizie pazzesche, non so. Quindi lei ragiona sul principio che l'animale, non avendo una sua possibilità di determinarsi o di scegliere se per lui è una cosa diciamo attiva, è come se fosse brutalizzato dall'essere umano. Ma è ovvio, anche perché comunque non dovrebbe essere contemplata una cosa del genere, siamo esseri umani, cioè fa parte anche di un'etica di comportamento, non ci sono parole, guardi, io non so più cosa dire. Vabbè, lei è rimasta molto sconvolta. Allora riprendiamo con Lorenzo Croce. Lorenzo Croce, questa è diciamo l'esperienza di questa signora, che poi ci ha dato un dato che non conoscevo, che all'estero diciamo questo tipo di attività è regolamentata, è vero? Sì, assolutamente sì, specialmente nei paesi nordici, in Danimarca, in Germania, ci sono delle regolamentazioni molto ferree. In alcuni casi invece è ammessa l'utilizzo di animali per la prostituzione, ovviamente ci stiamo parlando di una nicchia non enorme, però è... Cioè in Germania c'è una legge per cui posso usare degli animali e farli prostituire? No, c'è in Danimarca. In Danimarca. Ma è stata, diciamo così, bloccata da migliaia di... Ah, ci hanno provato a fare una legge, diciamo. Sì, ci hanno provato. Beh, in Danimarca conosciamo anche la legge che ha portato alla morte delle giraffe negli zoo e quant'altro, insomma, ci sono un po' di leggi che andrebbero. Beh, lì è stata una pubblica esecuzione davanti ai bambini, anche abbastanza. E neanche la prima, e neanche l'ultima, purtroppo. Detto questo, purtroppo, tornando alla questione in sé, adesso noi a questo punto, ripeto, stiamo attraverso i nostri avvocati della struttura di Perugia. Noi, ricordo che a Perugia abbiamo una delle più grandi scuderie, AIDA, con i cavalli salvati, che è quella di Corciano, lo scuderia dell'unicorno, con i nostri responsabili del porto. Data la tendenza, è considerabile a rischio a questo punto, no? Sì, il rischio c'è e secondo noi è un rischio molto più ampio di quello che si dà a vedere. La nostra paura è che noi ogni tanto tiriamo fuori queste cose non per fare del gossip nero, come qualcuno dice, o solo per cercare visibilità, ma perché è un fenomeno talmente diffuso. Ripeto, ci sono milioni di link che sono acquistati e visibili liberamente attraverso i siti pornografici anche dai bambini. Allora, fermiamoci un attimo, scusi, Lorenzo Croce, diamo le informazioni del traffico, poi entriamo più nello specifico per capire meglio l'entità di questo fenomeno, che può partire dalla notizia che sembra una notizia di gossip, da ridere, a Perugia due ragazze facendo le prostitute col cane, però in realtà è soltanto diciamo la punta di un iceberg molto più profondo, molto più doloroso, molto più diffuso, e siccome non abbiamo timore, paura o pregiudizio nei confronti delle notizie, le notizie ci sono, bisogna capirle, sviscerare e darle. E tra un istante continueremo con lei. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ho avuto un cagnolino per circa 13 anni ed è morto di leishmaniosi. Praticamente 11 anni di punture ogni 3 mesi, 60 punture in 30 giorni, mattina e sera. Poi a dieta, comunque il cane è stato benissimo, sono uno che ama gli animali, ama i cani. Siamo in provincia di Ravenna, dove andremo a visitare un gruppo di 60 nonnini che sono ospitati in questa casa protetta. Vedremo l'attività con i cani, dove grazie alla loro attività ludico-ricreativa rendono un buon servizio e un buon momento emozionale ai nonni che sono qui ospitati. Adesso devi, Maria, toccare... 800240024, stiamo parlando di un caso abbastanza scabroso, due prostitute colte a Perugia offrirono prestazioni assieme al cane. Stiamo parlando del fatto che esiste un vuoto normativo, non c'è nessuna legge che indichi come reato l'atto sessuale sull'animale, che è considerabile come un abuso, perché l'animale appartiene a un altro genere e non ha possibilità di difendersi o di dire non mi va o di determinarsi, o comunque viene visto nella percezione generale come qualcosa che è assimilabile alla violenza. Naturalmente gli ascoltatori molti non capiscono, e mi scrive una persona tutto in maiuscolo come se urlasse: dillo che è contro natura, andare con una bestia è abominevole come andare con lo stesso sesso. Ma scusa, sto parlando di esseri umani che possono determinare di andare con chi loro gli pare nella grande famiglia degli esseri umani, e gli animali non possono scegliere loro. Vorrei vedere voi se improvvisamente la comunità degli elefanti decidesse: noi vogliamo sbizzarrirci con gli umani, entrassero nelle nostre città, venissero a perdervi a casa, beh, oggi mi voglio togliere uno sfizio con te, caro uomo, la comunità degli elefanti. Poi dite se questa cosa la considerereste accettabile. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sì. Volevo aggiungere a questo tema che nel libro del Levitico, che sarebbe nel Pentateuco il terzo libro, parliamo del XV secolo avanti Cristo, c'è il capitolo 18 del Levitico che ha proprio le sanzioni applicate a coloro che, uomini e donne, hanno rapporti carnali con bestie. Quindi praticamente c'era la lapidazione con pietre, praticamente. Vabbè, adesso lei vorrebbe, diciamo, lapidare le due ragazze di Perugia? No, altri tempi. Cioè, diciamo che le comunità nomadi in cui era facile che le persone che passavano lungo tempo nella pastorizia sole con gli armenti cominciassero a farsi venire idee, salvaguardavano la conservazione della specie. Avere figli significava avere forza, sopravvivere, quindi dice non perdete tempo con le pecore, con i montoni, ma datevi da fare tra di voi. Rosanna. Oh, buongiorno, che piacere. Io volevo dirle, mi è passato l'appetito. È una cosa disgustosa. E le malattie che si possono trasmettere? Non so, adesso saranno rapporti protetti, non so dirglielo, non lo so. Mamma mia, ecco, volevo solo dire questo, solo questo, disgustoso. Roberto. Sì, buongiorno Nicoletti. No, mediamente si dice che ci sia coppia tra simili, quindi già accoppiarsi tra un umano e un cane, o una pecora, un cavallo, un ippopotamo, quello che vuoi, è già una cosa fuori del normale. Che fa specie sono le due ragazze studentesse, all'inizio della trasmissione. Quindi se studentesse sono giovani, sì, quando arrivano a 40 anni, 45, che cosa si inventano? Si accoppiano con un grattacielo? Ma, non lo so. Adesso ci dirà, cosa, ci dirà il testimone. No, sì. aspetta, sì. fammi finire. Il cane è un animale molto intelligente, ma limitato, nel senso che tu gli insegni che è una cosa bella e lui la fa. Come ci sono i cani del riporto, i cani da tartufo, i cani antidroga, cioè gli dici che quello va bene, gli dai il premio e lui, per lui va bene, basta addestrare il cane. Ma se qui siamo alla devianza mentale umana più totale. Ma non ha aggiunto nulla, perché l'aveva detto anche Lorenzo Croce, che il cane comunque sia andrebbe ricondizionato. È chiaro, il cane è stato addestrato per fare un'attività diciamo impropria, è chiaro andrà riaddestrato, sennò ogni signore o signora che vede continua a fare quello che gli è stato insegnato. Lina, velocemente. Sì. Allora, nella fine del 98-99 mi è rimasto impresso perché una signora l'ho beccata con il cane incastrato, ha chiamato pronto soccorso. Ma è vero una leggenda metropolitana? No, no, facevo da guardia il fidanzato della mia amica, a parte dello scandalo. Ma com'è successa questa cosa? Com'è successa? Nel Cunese, per bene, pure presunta è una bella signora. Ma adesso non dica bella. Il nome, sì. Non dica il nome, dico. No, ma sono state testimoni di quella. A parte, è rimasta impressa solo questa, perché a parte dello scalpore. Ma lei l'ha vista, scusi, lei l'ha vista questa cosa, Lina? Sì. Alla vista poi, il primo testimone dell'incastro col cane. Sì, con la compagna della mia amica che faceva la guardia e nessuna denuncia c'è stata, nessuna. Era anche una signora piuttosto giovane, bella, si poteva permettere più bell'uomo del mondo, cioè non c'era altri bisogni. È rimasta incastrata e l'hanno portata al pronto soccorso. Pronto soccorso, nel Cunese, fine 98, sì, primi del 99. Chi non conosce l'anatomia dei cani sa che i cani, la natura li ha dotati di un meccanismo per cui rimangono per un periodo incastrati proprio perché non devono. Lorenzo Croce, ritorniamo al campo, ritorniamo al punto. Come mai in Italia non è reato fare questo tipo di cose? Allora, anche qui. Ricordo presidente Laida, che è diciamo, l'Associazione Italiana di Difesa Animali e Ambiente. In Italia non è reato perché non è previsto, nel senso che il 544, che è il reato del codice penale che stabilisce il maltrattamento di animali in tutte le sue specifiche, non prevede questa specifica, insomma, non prevede il sesso con animali. Per la realtà ci sono state un paio di sentenze, una a carico di un attore pornografico che abitava in provincia di Bolzano, che utilizzava i cani per fare film porno, ma in questo caso lui fu accusato di sfruttamento dell'animale e quindi ci fu... È un po' la fattispecie di queste due ragazze, in fondo loro esercitavano il ruolo di sfruttatrici del cane, se il cane doveva prostituirsi per mano loro. Esatto, e nel caso specifico e in altre realtà, ricordo altre due sentenze blande, per cui il cane venne tolto e vennero multate per... possibili appunto abusi sessuali, però il problema, se non vado dato una a Bologna e un'altra nel Milanese, però il problema grosso di questa della zoorestia è un problema molto ampio, ripeto, perché va dall'abuso personale del rapporto con gli animali, che è una cosa molto più diffusa di quanto crediamo, anche se non diffusissima, fino a... Ma cosa c'è? Scusi, c'è proprio diciamo un settore di persone che ricercano questo tipo di prestazioni? Ci sono addirittura dei blog o dei siti che noi abbiamo scoperto e abbiamo fatto di... Quindi c'è un mercato, perché qualcuno si attrezzerà per soddisfare questa richiesta. Sì, addirittura pare ci siano, non abbiamo la prova, però pare ci siano addirittura degli abomini veri e propri con dei viaggi organizzati per il sesso con i pedofili, quindi ci sono gli animali. Sono cose molto molto ristrette. Sì, devo dire che si entra in zone piuttosto scure. Esatto, comunque detto questo, noi chiediamo proprio che venga dichiarato reato tutta la casistica che riguarda il sesso con animali, dalla pratica diretta fino, ripeto, a tutta la pornografia che ne è comunque utilizzata, perché comunque abbiamo in Italia dei posti dove si girano dei film, qualcuno ricorderà vecchie attrici che andavano vantandosi di aver fatto. Beh, Marina Lotar fu un caso, la moglie del povero collega Fraiese, sì, passò la storia per Marina dei Cavalli, quindi esatto, aveva una concezione dell'equitazione molto personalizzata. Quindi quello che noi diciamo è questa cosa, noi continueremo a denunciare di volta in volta questi fatti. Adesso nel caso specifico le ragazze, vi do due notizie di cronaca di stamattina, sì, sono state cacciate da casa dalla padrona, perché noi abbiamo parlato con la proprietaria, perché ovviamente, e adesso la proprietaria stessa sta attraverso il portinaio recuperando gli indirizzi o eventualmente delle persone che andavano da queste ragazze, se riusciamo ad avere qualcuno. Sì, ma se non è aperta, se nessun magistrato apre un fascicolo su questo, non può fare il detective la padrona di casa delle due ragazze col cane. Voi non potete fare una denuncia specifica su questa cosa? Noi faremo una denuncia specifica, però ovviamente, visti i precedenti, abbiamo bisogno di qualcuno che vada a dire sì, io l'ho fatto. Sarà molto difficile. Noi ci proviamo. Le ragazze come hanno reagito? Quando lei, diciamo, ha telefonato fingendosi un cliente, dicendo c'è il cane e tutto, era normale per loro questa cosa? Sì, si parlava come si parla io e lei in questo momento. Quindi era, diciamo, una normale, diciamo, gadget che loro mettono a disposizione dei clienti? Sì, diciamo dei clienti un po' più selezionati, perché prima, ripeto, la prima telefonata è stato solo un discorso di rapporto diretto. Ma questo vale anche, si ricorda l'episodio di Ilona Staller Cicciolina con Pito Pito col pitone? Ci fu anche lì un episodio. Me lo ricordo. E denunciaste anche allora? Noi non c'eravamo ancora, io allora ero alle prime armi giornalistiche, me la ricordo perché la vidi al Teatrino a Milano proprio a fare lo spettacolo. Quindi sentiamo Francesco, veloce. Francesco, qual è la sua domanda? Molto veloce. Guardi, una considerazione, perché evidentemente queste signorine avevano comunque molta inventiva, hanno fatto un'indagine di mercato, ci sarà una richiesta. E poi tutta questa, insomma, tutta questa eccessiva, come posso dire, permalosità si è sempre fatto, la Divina Commedia è piena di... Vabbè, Divina Commedia è una commedia, appunto, è chiaro. Si parla anche di qualche secolo. La storia dell'umanità ci sta, e poi ci dovrebbero anche dire, mo, tutto sto scandalo, comunque dovremmo arrivare anche alla sensibilità degli animali che lavorano. Io non credo che il cavallo sia così contento di tirare, non so, l'aratro. Ma o ci il sono cane, persone, questo lo dicono. Sì, però adesso non diciamo c'è altro di più, c'è altro chissà cosa c'è. In questo caso un signore ha fatto della sua vita la denuncia degli abusi sessuali sugli animali e ha scoperto un caso e gli abbiamo dato voce, come normalmente facciamo per altri mille casi. A domani.